4A. Ascolta e rispondi. Chi vedesti quel giorno? Vidi molte persone. Chi vedesti quel giorno? Vidi gli amici. Come venisti qui? Ci venni a piedi. Come venisti qui? Ci venni in auto.